America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Kennedy has been shot. Kennedy è stato ucciso. Un documento storico, naturalmente, resta un alone di mistero attorno a quello che è successo nella dinamica che ha portato all'assassinio del presidente americano. Ebbene, Donald Trump, questo l'avrete visto già in The News, ha annunciato di voler autorizzare, già a partire da questo giovedì, il rilascio completo dei documenti ancora secretati, 3.100 documenti diversi. Ecco, l'idea del mistero resta naturalmente ed è stata alimentata anche da questo film. Sentiamo. This is the key shot. The president going back and to his left. Shot from the front and right. Totally inconsistent. Ecco, questo è il film di Oliver Stone, JFK. E devo dire che Oliver Stone, ben fedele ai suoi principi, ai suoi presupposti, spesso discutibili, lancia l'ipotesi del complotto, di un complotto pianificato ai più alti livelli dello Stato, con protagonisti la CIA, l'FBI. Vi ricordo che allora alla guida dell'FBI c'era Edgar Hoover, che non sopportava John Kennedy, era questo personaggio molto autoritario che aiutò, tra l'altro, in qualche modo il senatore McCarthy a fare le inchieste sui presunti comunisti a Hollywood e in altre parti del paese. Ecco, mille aloni di mistero molto diversi, perché qualcuno dice che all'origine dell'assassinio, del complotto, perché in qualche modo qualcuno pensa che il complotto ci sia stato, ci fosse Cuba, altri sostengono che ci fosse la mafia americana, molto disillusa dalle promesse che Kennedy aveva fatto a suo tempo, quando la stessa mafia, si dice, aiutò il presidente ucciso a vincere le elezioni. Altri ancora ricordano che lì Oswald, l'assassino, l'unico assassino, andò a Mosca, aveva una relazione con la Russia. Insomma, ci sono una gran quantità di ombre, però l'accusa, diciamo, più brutta naturalmente è quella di Oliver Stone, secondo cui ci fu un complotto ai massimi vertici dello Stato americano, e in teoria questi documenti dovrebbero smentire questa ipotesi. Torneremo su questo tema quando avremo i risultati dell'inchiesta. China has been, I've developed a very good relationship with President Xi. President Xi is right now going through his. Donald Trump ieri in un'intervista alla Fox dice c'è stato un recente articolo che ha affermato che io ho la più grande relazione, la più forte relazione che ci sia mai stata tra un leader cinese e un leader americano. E in effetti io penso che proprio fra noi due questa relazione molto forte ci sia, tra me, naturalmente sottintende, e Xi Jinping. Xi Jinping che è appena uscito enormemente rafforzato dal congresso del Partito Comunista Cinese, e le tematiche naturalmente oggetto di discussione fra i due sono molteplici. Ma perché si sta parlando del rapporto con Xi Jinping? Perché Donald Trump il 3 novembre partirà per il suo debutto asiatico, viaggio molto importante, andrà in Vietnam dove ci sarà il vertice dell'APEC, ma visiterà anche il Giappone, visiterà la Corea del Sud e naturalmente visiterà la Cina. Il debutto asiatico di Donald Trump è molto importante ed ha al centro dell'attenzione, naturalmente dal punto di vista mediatico, è molto importante sul piano economico, il vertice dell'APEC, che è l'associazione di tutti i paesi che fanno parte dell'area del Pacifico, l'associazione economica, dunque rappresenta il 60% dell'economia mondiale. Ma al di là di questo incontro, la Corea del Nord resterà al centro dell'attenzione e un tema che continueremo a seguire. Ma la copertina della settimana la voglio dedicare ai tagli fiscali. Sentiamo. There's a great spirit for it, people want to see it, and I call it tax cuts. It is tax reform also, but I call it tax cuts. It'll be the biggest cuts ever in the history of this country. Ecco, dice Trump, c'è una grandissima energia per questi tagli fiscali, la gente vuole vederli, la gente chiede che ci siano, e io mi appello al Parlamento, al Paese, perché questi tagli fiscali avvengono. Ci vuole anche una riforma fiscale, ma io la chiamo più in generale taglio fiscale. Sarà il più grande taglio mai visto nella storia degli Stati Uniti, nella storia di questo paese. Ecco, questo, ma non credo che alla fine sarà vero, perché i tagli fiscali di Ronald Reagan furono sicuramente in termini percentuali molto più forti. Resta il fatto che il Congresso è disponibile, resta il fatto che anche i democratici sono interessati a partecipare a questo esercizio. Ho giurato in altre occasioni alcuni dettagli relativi alla riduzione delle tasse, ne parleremo nel corso della settimana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!